greatest of our common dangers. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. My philosophy is based on the concept that reality exists as an objective absolute. That man's mind, reason, is his means of perceiving it. Questa signora che parla in questo inglese così un po' scolastico, un po' duro, è un personaggio assai interessante, assai importante, di culto del XX secolo, ma insomma è morta 27 anni fa, è sempre stata seguita da cultori più che altro localizzati negli Stati Uniti d'America, nelle grandi metropoli, dalle parti nostre sconosciuta, ma lo era altrettanto nella grande America, eppure d'improvviso sta tornando prepotentemente in scena, se è vero che l'articolo più letto negli ultimi tempi sul sito del New York Times parla proprio di lei. Si chiama Ayn Rand ed è stata per diversi anni nel dopoguerra un personaggio di grande interesse, di grande magnetismo, soprattutto intellettuale, filosofico, di scelte esistenziali per le teorie che portava avanti e che raccontava inizialmente con una attività da sceneggiatore a Hollywood, dove era scappata dopo essere nata in Russia all'inizio del secolo, nel 1905, poi meglio ancora come scrittrice di romanzi, due titoli in particolare che hanno conosciuto il grande successo anche di mercato negli Stati Uniti nel dopoguerra, negli anni 50 e 60. Uno si chiamava La Fonte Meravigliosa e l'altro si chiama La Rivolta di Atlante, peraltro sono rintracciabili anche in Italia. La filosofia di Ayn Rand si chiama oggettivismo e in pratica è un vero e proprio cantico dell'individualismo nella più pura lettura, nella più cristallina lettura, che vuole l'uomo che abbia sempre a disposizione il diritto di scegliere i propri lavori, i propri valori attraverso la propria ragione, un individuo dotato di un diritto di esistere fino a se stesso, che non si debba mai sacrificare per il beneficio degli altri o piegarsi a qualsiasi forma di collettivismo, l'uomo che non si deve mai vedere imporre le idee dagli altri tramite la forza fisica, anche se quegli altri naturalmente può arrivare a essere rappresentato dallo Stato, dalla centralità dello Stato. Insomma, che succede? Succede che un filosofo come Ayn Rand, un personaggio intellettuale che ha fatto di queste provocazioni, delle sue spillette a forma di dollaro, del culto del capitalismo, della logica antiridistributiva, no? Proprio anti, ben oltre l'anticomunismo, proprio contro qualsiasi forma di collettivizzazione della società, un personaggio di questo genere sta riemergendo prepotentemente nell'America del 2009 e sta riemergendo prepotentemente sia nei think tank, nei laboratori intellettuali che provano a elaborare una strategia per una nuova forza conservatrice americana, ad esempio un think tank di Washington che si sta facendo notare di questi tempi, che si chiama Freedom Works, appaiono le parole, le citazioni di Ayn Rand nelle scelte, nelle parole dei grandi conduttori di talk show di destra, come lo stesso Glenn Beck su Fox News, Rush Limbaugh, tutti coloro che hanno bisogno di ricostruire il culto dell'individuo. Appaiono addirittura i suoi slogan sui cartelli e gli striscioni delle grandi manifestazioni che si sono viste a Washington quest'estate, no? Alimentate da quel movimento dei Tea Parties, della ricerca di aggregazione anti-obamiana e soprattutto anti-statalista. Si è rivista addirittura l'immagine, la logica esposta in quel famoso romanzo e poi film che adombrava una biografia di Frank Lloyd Wright, uno dei grandi individualisti creativi naturalmente dell'America del XX secolo, addirittura le parole pronunciate da Gary Cooper, sentite un po'. Migliaia d'anni fa un uomo riuscì a scoprire il segreto del fuoco, forse lo bruciarono con quel legno che gli aveva insegnato ad accendere, ma lasciò all'umanità un dono insperato e con esso liberò dal buio la terra. Durante i secoli altri uomini mossero i primi passi e nuove, animati soltanto dalla loro intuizione. I grandi creatori, i pensatori, gli artisti, gli scienziati, gli inventori rimasero soli contro gli uomini del loro tempo. Ogni nuova idea era ostacolato. Eccolo qua, questo è l'uomo ideatore, l'uomo, l'individuo forte che con la forza della propria ragione, della propria inventiva, della propria volontà, crea mondi sempre nuovi. È in un certo senso un ideale d'America che è sempre rimasto più che altro tale, naturalmente è rimasto un ideale, una utopia, ma che rivive in questi tempi in cui si è capito che una opposizione politica ma anche psicologica a un'America che sta cercando di trovare le proprie sicurezza in una nuova centralità che non ha mai realmente approvato, mai realmente conosciuto, ovvero con uno Stato che si occupa di risolvere, come meglio sai, come meglio può, molti dei tuoi problemi. Ecco, un'opposizione a tutto ciò ha bisogno di nuovi santi, di nuovi martiri, di nuovi eroi soprattutto, e non a caso si prova, fra le altre cose, scartabellando in biblioteca, a rispolverare un personaggio come Ayn Rand. Non a caso sono appena arrivate in libreria in America due biografie corpose e assai interessanti di Ayn Rand, che io vi cito. Una si chiama Ayn Rand and the World She Made, il mondo che lei fece, a firma di Han Heller, ed è pubblicato da Doubleday, e la seconda si chiama Goddess of the Market, la dea del mercato, Ayn Rand and the American Right, Ayn Rand e la destra americana, pubblicato da Oxford University Press. Questa è una strada percorribile per costruire, per ricostruire un santuario conservatore americano. Poi vedremo tra poco che ce ne sono anche altre. Primo piano. Are you pleased with the tour of Chapuisot? Yes, I very much enjoyed it. Eccolo, eccolo il presidente sulla Grande Muraglia. Persone qua in redazione osservavano, insomma, che era affascinante, anche se un tantino fintarella, no? Quella messa in scena di lui col giubbottino sportivo e il golf girocollo che scende solo per la Grande Muraglia, che è stata opportunamente votata di visitatori, di venditori di carabattole e souvenir di vario genere. Però insomma la sua scena la fa sempre. Questa è la parte così più visiva, no? più estetica del viaggio di Obama in Asia, in Cina in particolare. Ha detto il presidente: da qui si ha una buona prospettiva sulle cose di tutti i giorni, di fronte alla grandezza della storia non è che contino molto. Insomma, si è concesso una bella botta di retorica, ma noi glielo concediamo, perché poco prima si era anche comunque sciroppato un lungo colloquio con il presidente giapponese Wen Jiabao, il premier giapponese Wen Jiabao. Sicuramente i due avranno colloquiato come sempre con l'utilizzo di traduttori, quindi con grandi lungaggini, non a caso per due ore sono stati insieme. Le conclusioni hanno come sempre più che altro una veste teorica. Insomma, il Barack ha detto, Wen Jiabao ha detto, fatemi trovare le note, eccole qua, la Cina vuole costruire con gli Stati Uniti rapporti commerciali equilibrati, gli ha detto il premier cinese. Si è augurato che la visita in Cina di Obama porti le relazioni tra USA e Cina a un nuovo livello. E ancora si è detto che sicuramente le questioni in discussione in questi giorni, in particolare Tibet e Taiwan, sono destinate a imboccare la strada della migliore risoluzione. Insomma, si è finiti con buoni principi, non molta sostanza. Questa magari hanno lavorato le rispettive commissioni che hanno seguito Barack Obama e Wen Jiabao nel corso degli incontri. È già arrivato in Corea del Sud Barack Obama, è l'ultima tappa del suo tour asiatico. Incontrerà il suo omologo sudcoreano Lee Myung-bak, discuterà in particolare naturalmente del pesante, gravoso dossier nordcoreano. Poi ritorno negli Stati Uniti. Save. Nothing you can do, but you can learn how. Do you ever want to be president of the United States? That certainly isn't on my radar screen right now, but when you consider some of the ordinary turning into extraordinary events that have happened in my life. Noi quando sentiamo questa voce, insomma, un brividino lungo la schiena ci corre, perché insomma c'è tutto questo arrotamento di vocali, di consonanti che si mescolano e si annodano tra loro, e ci sembra che la vita in un certo senso sia un po' più elettrizzante. Lei è Sarah Palin, mentre la signora che poneva la domanda molto sostanziosa, molto solenne, è Barbara Walters, una delle veterane del giornalismo americano, in realtà insomma una delle veterane, ma del giornalismo più soffice, più un po' più paludato, no? È famosa, si dice di lei che è famosa per fare ai suoi intervistati delle domande attorno a cose che nessuno di noi che guardiamo potevamo pensare ci potessero mai interessare. Però poi gli ha chiesto anche, gli ha fatto anche una domanda specifica che ci interessa, ha chiesto a Sarah Palin in occasione di questa intervista che, pensate un po', la ABC addirittura dividerà in 5 parti per sfruttarne il più possibile l'impatto commerciale, perché in questo momento nell'America che si sveglia non c'è un personaggio che sia più elettrizzante, più divertente, più richiesto, più guardato di Sarah Palin e del suo libro che sta uscendo in questi giorni. Insomma, gli ha chiesto, vuole diventare, poi ha scandito, no, con quel modo un po' da signore davanti ad Alzate, lei ha intenzione di diventare presidente degli Stati Uniti d'America, e lei gli ha dato, lei ha dato una risposta molto molto da così da ragazza dell'Alaska, ha detto no, non è nel mio radar diventare presidente degli Stati Uniti d'America. Ma insomma, il successo accertato di questa signora è un dato di fatto in queste ore, che parte il grande tour promozionale con il quale presenterà agli americani il suo libro. E Sarah, che è una ragazza di provincia, non parte mica da Philadelphia, Los Angeles, Boston, no, parte da Grand Rapids, Michigan, un posto come dire, dove vive, no, quell'America profonda, provinciale, lontana dal centro, dalla centralità, dallo stato di cui sopra. Vi ricordate Ayn Rand, di cui abbiamo parlato poco fa? Perché poi la domanda al centro della puntata di oggi di Buongiorno America è: ma come possono andare d'accordo Ayn Rand e Sarah Palin nella costruzione di una nuova America, di una nuova Right America, no? Di una nuova America conservatrice che ritrova, rinfocola, rafforza la vecchia tradizione, il vecchio credo dell'individualismo, del patriottismo, di un orgoglio un po' separatista e quant'altro. Si può trovare un punto di contatto fra le due cose, ma vedremo. Comunque, Grand Rapids, Michigan, seconda tappa a Fort Wayne, Indiana, e terza tappa a Roanoke, Virginia. Prendete i vostri appunti se volete andarla a vedere. Poi prima o poi sbarcherà anche a New York, a Barnes & Noble, no? Quella a Union Square, dove fanno le presentazioni che contano, e secondo me anche i newyorkesi, magari con una parrucca in testa, però andranno a vedere il fenomeno del momento. Sarah Palin, che presenta Going Rogue, An American Life, il libro. Lo possiamo mettere, per tornare sull'argomento, possiamo mettere Going Rogue in American Life accanto alle biografie di Ayn Rand e creare un'ipotesi di America conservatrice possibile? Bah, tutto da vedere. Intanto però, se ne interessa Mastro David Letterman, che non lascia perdere mai Sarah Palin perché la odia, detto così in soldoni, anche perché va da Oprah Winfrey, va da Barbara Walters, ma non lo va a trovare, ma secondo me prima o poi ci andrà. Ieri ha fatto una top 10 David Letterman nel suo show, intitolato Le 10 sorprese che potete trovare nel libro di Sarah Palin. Noi non abbiamo resistito e abbiamo deciso di riproporvele, naturalmente modestamente tradotte, ma sentite un po'. Number 10. Cover photo is actually Tina Fey. Allora, numero 10, la foto di copertina non è Sarah Palin, ma è Tina Fey, la sua imitatrice, così tanto per dare una botta subito in partenza. Number 9. All proceeds from the book go toward a bitchin' new snowmobile. Ecco, un altro debole di Sarah Palin, sottolineato da Letterman, ma tutti gli introiti del libro saranno utilizzati per l'acquisto di una nuova motoslitta da sballo. Number 8. Nearly had to pull out of campaign after spraining her winking muscle. Questo sarebbe così un segreto emerso tardivamente. Avrebbe quasi dovuto abbandonare la campagna elettorale Sarah dopo essersi stirata il muscolo, quello, avete presente, qua sulla guancia, quello che fa strizzare l'occhio. Number 7, not interested in politics, is interested in joining Dancing with the Stars. Questo è un altro segreto per iniziati. In realtà, dice Letterman al numero 7, Sara non sarebbe veramente interessata alla politica, ma il suo scopo vero e proprio sarebbe partecipare a Ballando sotto le stelle. Number 6 includes fantasy sequence where she beats Katie Couric with her own microphone. Oh, nel libro c'è un'indiscrezione che conta al numero 6, un paragrafo così, un po' di fantasia, nel quale Sara racconta di aver preso a microfonate in testa Katie Couric, quella che le fece l'intervista facendole fare praticamente una figura da fessa. Number 5, someone's got a crush on John Gosling. Ah, qui proprio si attacca la famiglia, il solito vecchio vizio di David Letterman di attaccare la famiglia di Sarah Palin, che così è dedita proprio a una vita reality, no? Talmente dedita alla vita reality che ci sarebbe qualcuno nella famiglia Palin pazzamente innamorata di questo John Gosling, che altro non sarebbe che l'ennesimo eroe dell'ennesima reality show sull'ennesima famiglia con 42 figli, 6 cani, il pappagallo e via. The number 4, it's a science fiction romance about moody teenage vampires. Questa è un'indiscrezione importante al numero 4. In realtà il libro non sarebbe una biografia di Sarah Palin, come crediamo tutti che non vediamo l'ora di acquistarlo, ma sarebbe un romanzo di fantascienza su ragazzi vampiri lunatici. Number 3, favorite website, you betcha tube. Questo è per conoscere i segreti di Sarah Palin. Il suo sito televisivo, il suo sito web preferito sarebbe You Betcha Tube, che poi sarebbe insomma la web TV delle ragazze, quelle con gli attributi. Number 2 includes Levi Johnston centerfold and al numero 2 guardate che c'è il poster di Levi Johnston, l'ex fidanzato di sua figlia. E al numero 1 il segreto che tutti aspettavamo che ci venisse rivelato, ce lo siamo sempre chiesti, l'abbiamo sempre guardato, quello lì con la barba, il giubbotto, la camicia tutta aperta. Ebbene, il libro di Sara Palin ci fa sapere che nemmeno Sara conosce la professione di suo marito Todd. Pescatore, cercatore, scavatore di petrolio, investitore, non si è mai capito esattamente che mestiere faccia Todd Palin. E così insomma David Letterman ci scherza. Di fatto, come vi dicevo prima, io sono sicuro che David Letterman lascerebbe lì una bella fetta del suo stipendio perché Sara Palin alla fine dicesse: sai che ti dico, ti vengo a trovare, mi siedo sulla tua poltrona e poi probabilmente ti sputo in un occhio. Allora, dove vuole andare l'America conservatrice in vista del 2010, anno in cui si vota, verso delle scelte così un po' esoteriche ma sicuramente assai motivate, come quelle di una riscoperta dell'oggettivismo di Ayn Rand, o verso quella che Tina Brown, in un piccante articolo, sostiene essere la vera erede di Oprah Winfrey, sostiene è andata da Oprah Winfrey perché vuole diventare come lei, anzi ne raccoglierà il posto di lavoro. Ne riparliamo qui a Buongiorno America. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Carmelo Lauricella a Milano, la mail buongiornoamerica è tradio24.it, Facebook si chiama Redazione Jefferson 3, replica dopo mezzanotte, diretta dopo l'una e mezza domani. Tutti bene, tornate a Radio 24.